19 con Storia d'amore a concludere Southside. Southside che ritorna lunedì dalle 18 alle 21. Hai detto che sono le 19? No, 19. Dalle 18 alle 21 vi lascio con questo matto di Fergal. A domani, bye bye, sono le 21. Sound americano su Radio Kiss Kiss Network e I Love America. I Love America. I Love America. Hello everybody and you're very welcome to questa edizione of I Love America. My name is Fergal Kavanagh. On controls c'è Robertino e abbiamo venerdì 15 giugno. Ma venerdì già? Ma dove è volato la settimana? Sembra proprio che fosse ieri che era lunedì. Comunque siamo alla fine settimana e che fare for the weekend? L'amore ragazzi, perché alla fine it's only love. Insieme a Tina Turner dice it's only love, è solo l'amore, ma c'è una differenza di età tra quei due, no? Quindi vabbè, noi siamo apertissimo in I Love America e saremo qua insieme ascoltando the best of American music fino alle 23. Adesso ascoltiamo in sottofondo Limp Bizkit with Take a Look Around. E loro e Limp Bizkit praticamente hanno dato l'addio alla stampa, hanno detto che ci sono stati scritti troppo bugie a proposito di loro e non vorrebbero essere più una parte di far parte di questo cerchio, come dicono loro. Però puoi sempre aggiornarvi attraverso il loro sito ufficiale. Here they are with Take a Look Around. All the tension in the world today, all the little girls filling up the world today. With the good comes the bad comes the good. But I'ma live my life like I should, like I should. Now all the critics wanna hit it. It's shit can how we did it. Just because they don't get it, but I'll stay fitted. New era committed. Now this red cap gets a rap from these critics. But do we always gotta cry? Always gotta cry. Do we always gotta live inside a lie? Life's just moving really fast. Best stay on top of life, I'll kick you in the ass. Follow me into a combination for this life and where to keep it. It's kind of sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I don't even know what I should say, cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist, beating up my mind every second with my fist. And everybody wanna run, everybody wanna hide from the gun. You can take a ride through this life if you want, but you can't take the edge off the knife. No, sir. And now you want your money back, money back. But you're denied. Brains fried from the sack, and there ain't nothing I can do, cause life is a lesson, you'll learn it when you're through. I know why you wanna hate me, I know why you wanna hate me, I know why you wanna hate me, cause hate is all the world has even seen lately. America. Volete sapere come si fa a telefonare a tutti, a tutte le ore, tutti i giorni, a sole 185 lire al minuto più IVA? Ve lo diciamo dopo la pubblicità. Non cambiate stazione. Yes, yes.

crowds up in here. We got Dante up in here. And it's on like that. That's right. Now all you cats that's talking at degrees, please stop it, man. We can't take it no more. Now tell them cats where you from, baby. Come on, yeah! Let them know. She's Miss California. Hottest thing in West LA. House down by the water. Sells her yacht across the bay. Gli sta andando benissimo questo Miss California, that's Dante Thomas, il suo primo singolo con un po' di aiuto da Pras ed Excel Fugees, grande, mi piace molto questo bel pezzo. Allora Prince, come sappiamo tutti, ha festeggiato il suo compleanno la settimana scorsa con un grande festa eccetera eccetera, però adesso ha deciso di fare un grande tour per continuare la festa, eccolo qua. Was there ever a reason for us to be apart? The air that fills up this room says not hardly. So this is where you end. Ever sold, oh, Prince. Comunque non vuol dire il più grande romanzo mai scritto, ragazzi, vuol dire il più grande storia di amore mai scritto, the greatest romance ever sold. E adesso mi trovo nel difficoltà perché sul disco lui è nominato the artist formerly known as Prince, cioè l'artista una volta conosciuto come Prince, però adesso è riconosciuto come Prince un'altra volta, quindi come la devo disannunciare? L'artista conosciuto come Prince che era una volta l'artista formalmente conosciuto come Prince, che confusione proprio. Ascoltate The Lights con Good Beat. Cut. Dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal mondo. Top 50 su Radio Kiss Kiss. 50 posizioni con i 50 dischi della più bella musica internazionale. Top 50. Sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Ornella Raucci. Top 50. Top 50. Top 50 su Radio Kiss Kiss. La musica che fa girare il mondo. Che fa girare il mondo. Club with Right on Track dall'anno 1987. E magari state dicendo: ma chi è questo Breakfast Club? Ragazzi, sono un gruppo che una volta aveva un componente molto famoso, sto parlando di Madonna, il primo gruppo di Madonna. Però ormai, quando loro hanno avuto questo hit, Madonna era un grande successo come solista, e il batterista Stephen Bray ha continuato a collaborare, a scrivere dei brani per Madonna come Into the Groove e Express Yourself. Un po' di storia lì per voi. Madonna in concerto stasera a Milan, speriamo che sia bella. lot of smiles. Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am, just a drowning brain, with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Dall'album Grave Dancers Union dal 1992 sono i Soul Asylum. Bellissimo questo che mi porta indietro. Vi ho già raccontato in programma quando stavo in Grecia con il mio amico James e questo pezzo cantavamo insieme sulle tavole dai bar. Bello questo, è un bel pezzo rock, ma sembra che i Soul Asylum, questo era il loro quinto album, erano un gruppo di garage un po' più raw e crudi eccetera, e quando è uscito questo pezzo addirittura i fans dicevano che si erano venduti. Incredibile, perché per me è così bello. Allora saluto Illy che mi ha scritto: hello hello, non credo, I can't believe that I'm spending the second Friday in a row studying, that's not fair, thanks for the great music. Oh, buono studio, spero che ne vale la pena alla fine. Here's Fastball.

stato questo on Broadway, scritto da Leiberitz, George Benson and I Love America. Allora, Cristiana, grazie del tuo messaggio. Dice, mi piace il tuo programma, sei gentile e dai consigli. Ciao anche a te. Il nostro numero di SMS è 348-661-9461. E adesso ascoltiamo a soul influence reggae singer. It's Jack Radix and this is called No Matter. Car. I've been robbed so I won't get far, it don't matter. Don't matter. And then the bank took the house, now the neighbors start to shout, don't matter. It don't matter. No, it don't matter, cause life. America. Looking for just Grande, grande hit, If You Love Me, per Brownstone, che è venuto dal loro debutto nel 1993, Past Loving, l'album. Ma che fini hanno fatto? Non lo so. Here's Mary Mary. When I was a little child, it wasn't easy. Mama didn't always have a job to take care of me. But I love her cause she tried so hard to do her best. But when she fell short, God did all the rest. That's why possibly remember all the things that you've done. In my life I've seen some weary days, but with you I've overcome. Why wouldn't I say yes to you when you gave your life for me? Now I'll give mine to you, and I'm gonna tell. Marcello Niespolo ed Enzo Martino ti danno appuntamento per la Club Parade, una delle classifiche dance di Radio Kiss Kiss. 20 posizioni che ti terranno incollato alla radio per un'ora. Club Parade, House on Air. My dear, you do not know me, but I know you very well. Now let me tell you that I can't you. My dear, you do not know me, but I know you very well. Now let me tell you that I can't you. Talk to me, tell me where you were. You told me with your friends hanging out. You're lying, got you stuttering. Now where were you? Stop lying to me, got you ticking me off. See you ticking me off. Two-way, still no response. I took care of you, I loved you, and you played me. Stop finding me about where you've been. It's ticking me off, ticking me off. Don't be stuttering when you crying, cause you're lying to my face. Stop lying to me about cinnamon, cause you're taking me out. Ragazzi, è un grande peccato che non posso mettere il nostro fonico Robertino in diretta perché sta facendo il stutter stutter dal vivo qua nel suo studio. Ma Robby, sei pazzo? That's Joe with Stutter and I Love America, la più grande musica fino alle 23, ma adesso sono le 22. Like fregadazo, still got the coke and rum and flex the brazos. Then I hit you from a different angle. Late sweep, cheap shot, bird shit, straight cop. So el twin pistolero guerrero, don't be afraid of that. A matter of fact, I got like 10,000 maniacs in the crowd on a very good night. But keep it hype for a fraction of that to get the fatty like that. Sonica en el aire, todos quieren baile. Plus my sick Latin style, baile. Trouble as they come, I can feel the drum. Don't know the words, but you can hum. With Return of the Tress and I Love America fino alle ore 23, ragazzi, insieme con Fergal Cavanon voce and Robertino on controls. E voglio salutare a Stefania che mi ha scritto da Lecce. Grazie per il tuo messaggio, mi è piaciuto molto perché hai detto sei molto simpatico quando pronunci le parole SMS, potresti dirlo più spesso. Complimenti per il tuo programma e cose belle voglio. Grazie Stefania e cose belle voglio anche a te. Allora il numero di SMS, visto che ti piace così tanto, è 348 661 9461. Adesso Moby, Run On. Comunque mandaci un SMS. Talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight rider. Run on, for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. date with a neighbor's wife. Brother, let me tell you just as sure as you're born, you better leave that woman alone. Go tell them. I love America. Sono gli NSYNC che dicono bye bye bye, ti lascio a casa, e mi sembra proprio adatto per il loro tour americano, dove loro viaggiano con i golf cart propri ognuno, e pure il loro letto di straiare per prendere il sole. E per trasportare queste cose ci vogliono due camion con 18 ruote, quindi è normale che deve lasciare la ragazza a casa, scusate. Allora, you're listening to I Love America, vediamo chi è adesso alla prossima. Dice my name is, well, oh, what is your name? Like I did, try to sit and get messed up worse than my life is. My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I want to impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a pimpin'. Why's your face red, man? You wasted. Well, since age 12, I felt like a caged elf who stayed to himself in one space chasing his tail. Got ticked off and ripped Pamela Lee's lips off, kissed him and said, I ain't no silicone was supposed to be this soft. I'm about to pass out and crash. crash and fall in the grass faster than a fat man who sat down too fast. Come here, lady, Sadie, wait a minute, that's my girl, dawg. I don't give a damn, Dre sent me to take the world off. Hi, my name is... What? My name is... What? My name is... wanted to flunk me in junior high. Damn. Thanks a lot. Next semester, I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. And told him to change the grade on the paper. Now, walked in a strip club. Had my jacket zipped up. Served the bartender. And walked out with a tip cup. Extraterrestrial. Running over pedestrians in a spaceship while they're screaming at me. Let's just be friends! 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more bored than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper. Make a record about doing drugs and name it after. Yeah, Mom. You know you blew up when the women rush your stands. You try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole. Hi, my name is... This kid needs to be locked away. Get him! Dr. Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave, it's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Whoa! Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of Kool-Aid. Dare me to drive? Go ahead. All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide. Whoops. Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk. I'll be anything that walks. When I was little, I used to get so hungry I would throw fits. How you gonna breastfeed me, Mom? You ain't got no... I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and tap myself in the head. So I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad, ask him if he bought a porno mag and see my ad. My name is... Nessuno ti regala niente. Arctic Vodka alla frutta ti regala 2 Porsche Boxster e 50 cellulari Ericsson. Nessuno ti dà una seconda possibilità. Arctic ti fa giocare 2 volte, al telefono e su internet. Nessuno. Meglio comprare una bottiglia di Arctic. Arctic, rompe il ghiaccio. Scade il 31-12-2001, Outmin MP36434. Se il futuro IBM bussa alla tua porta, hai chiamato il numero verde 800 29 1978 di Z-Line. Con sole 90.000 lire al mese avrai direttamente a casa tua computer portatile IBM ultraleggero, monitor a cristalli liquidi, telecamera, stampante a colori, scanner, fotocamera, casse acustiche, via voice, DVD. Tutto garantito con assistenza di 3 anni e la professionalità dei tecnici Z-Line. Con sole 90.000 lire al mese. Z-Line 800 29 19 78 o www.zline.it. Yes, yes. State sentendo una particella di sodio in acqualete che cerca di comunicare con una bollicina. Non te ne andare! Bolla! È scoppiata! Acqua minerale Lete. L'acqua effervescente naturale con la minor presenza di sodio. Acqualete, ricca di piacere, povera di sodio. America. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he's got things done. He's sleeping on the job. Those Raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Grande, grande, Raindrops Keep Falling on My Head from Benjay Thomas. E questo viene dal film Butch Cassidy and the Sundance Kid nel 1969, scritto da Burt Bacharach e Hal David. Proprio un pezzo storico. Allora, grazie a Silvia che mi ha scritto da Bitonto in provincia di Bari. Dice che la radio Kiss Kiss è la colonna sonora della mia giornata. Grazie, e certo che ti ricamerò i saluti. Poi dice: la vera felicità sta nelle piccole cose, una piccola velo, un piccolo yacht, una piccola fortuna. Siete d'accordo con me? Look what love.

I got signs in the rise and the motion for your ocean. Coolio got the potion to get the party open. Slide, slide, but that's the best. I got something brand new for today. Ad aiutarci ad imparare le numeri in inglese, 1, 2, 3, 4, something new, that's Coolio and I Love America, questa sera, questo venerdì sera, wow, the best of music, per farvi muovere, proprio Michael Jackson che arriva adesso, e ragazzi, il vestito, l'abito che ha portato sul copertino di Thriller, lo puoi comprare all'asta se volete, loro pensano che prenderanno $25,000 addirittura, comunque, non lo so, roba da pazzi.